9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon 28 di marzo. Allora, la puntata che dedichiamo oggi è a seguito di una sentenza che ci ha molto colpito, che è uscita venerdì scorso, una sentenza assunta dal giudice del lavoro di Genova ed è in materia di precari della scuola, quindi di un tema sul quale da mesi, in realtà negli ultimi anni, ma poi in contemporanea con le riforme giovanili della scuola, il tema è diventato sempre più incandescente, perché ce ne siamo occupati molte volte. Una delle critiche più forti e ricorrenti è stata quella di contrastare i tagli che il ministro dell'economia, anche nella scuola come nell'università, ha imposto ai suoi colleghi per le prospettive di contenimento della finanza pubblica, e queste hanno portato a una riduzione, alla mancata possibilità ovviamente di assunzione e immissione nel ruolo di tutti coloro che da anni si addensano nel sistema della formazione alla ricerca di un impiego a tempo indeterminato. Lasciamo adesso da parte tutte le polemiche di cui ci siamo già spesso occupati in ordine al rapporto tra studenti e docenti, lasciamo da una parte la posizione mia ben nota e ripetuta, che la questione della scuola e dell'università non va scambiata con le piante organiche e con il numero dei dipendenti di chi ci lavora, perché bisogna ben assumere il punto di vista di chi invece deve ha diritto a un'offerta formativa, cioè di chi la frequenta, ma occupiamoci della sentenza che abbiamo appreso venerdì e delle sue conseguenze, le sue proiezioni, per capire che cosa vuol dire, che cosa è avvenuto. È avvenuto che il giudice del lavoro di Genova si è pronunciato sul caso di 15 precari della scuola, riconoscendo loro 500.000 euro, e cioè circa 30.000 euro a testa. Ogni lavoratore, il giudice monocratico, che si chiama Marcello Basilico, questa sentenza, per chi fosse interessato, è la 520 del 2011 del giudice del lavoro di Genova. Naturalmente siamo in attesa del deposito delle motivazioni. Comunque, con la sua decisione, il giudice Marcello Basilico ha riconosciuto un risarcimento del danno pari a 15 mensilità, oltre a diversi arretrati, per ciascuno di questi 15 precari della scuola. Ha riconosciuto gli stessi diritti economici del personale di ruolo, quindi del personale di carriera e delle anzianità professionali. Poi ha stabilito e riconosciuto l'illegittimità dei contratti a cui sono stati costretti questi lavoratori precari, e cioè 3 annualità di contratto a termine per coprire 6 di vacanti, e quindi di conseguenza ha riconosciuto 15 mensilità per ogni lavoratore in forma di risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo. Il Sole 24 Ore, che l'indomani ha dato ampio risalto in prima pagina, è stato praticamente l'unico quotidiano italiano a dare risalto nazionale a questa vicenda, ha quantificato gli effetti che potrebbero venirne nel caso in cui questa sentenza dovesse fare stato, e ha fatto un conto secondo il quale potrebbero derivarne effetti boomerang per la finanza pubblica fino a 3 miliardi e oltre di euro, visto l'esercito dei 500.000 supplenti con assunzioni che avanzano al ritmo di 10.000 l'anno. È vero da una parte che questa sentenza è una sentenza risarcitoria che non si spinge fino al punto di tradurre immediatamente il rapporto a tempo indeterminato il rapporto precedente, perché ce ne sono state anche in quel senso. Per esempio c'è stata una sentenza il 27 settembre del 2010, in questo caso del Tribunale di Siena, giudice Cammarosano, in accoglimento di un ricorso presentato da una docente, a quel punto ha statuito l'immissione in ruolo senza concorso, convertendo il rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. In quel caso il soggetto era il MIUR, cioè l'università, e non una scuola superiore. Tuttavia, i problemi che si pongono sono: esiste, è davvero fondata la via giudiziaria alla soluzione del problema del precariato nella scuola italiana? E questo diciamo perché naturalmente i sindacati su questo si apprestano, cioè hanno alimentato nei mesi scorsi l'aspettativa in molte migliaia di precari di mettiamoci tutti insieme, facciamo azione e vediamo di che cosa si viene a capo. Primo, secondo, quale sarà la risposta da immaginarsi da parte del sistema pubblico di fronte a sentenze di questo tipo? Ecco, allora iniziamo da questi due punti. Ripeto, concentriamoci sulla questione precariato, lasciamo il più possibile sullo sfondo ciò di cui ci siamo occupato già tante volte per capire se questa sentenza apre più problemi o apre più soluzioni. Abbiamo con noi il Massimo Di Menna, che è il segretario della UIL Scuola, perché a Genova ci si è arrivati a questa sentenza perché è stata la UIL a organizzare il patrocinio di questi lavoratori. E quindi buongiorno a Di Menna. Buongiorno. È in linea Di Menna? Sono in linea, buongiorno. Buongiorno innanzitutto, e poi è con noi anche Valentina Prea, che è presidente della Commissione Cultura alla Camera e è stata a lungo sottosegretario all'istruzione. Buongiorno a Prea. Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori, grazie. Allora, Di Menna, iniziamo un secondo. Questa sentenza che reazione ha da parte vostra, e poi è la via giudiziaria la soluzione al problema del precariato nella scuola? Vengo subito alla risposta alla sua domanda. No, non è la via giudiziaria la soluzione al problema del precariato, non può assolutamente essere questa. Sicuramente questa sentenza, che non è la prima, e sicuramente, molto probabilmente, non sarà l'ultima, perché ci sono migliaia di ricorsi, deriva dalla diciamo non soluzione al problema, quello possibile, dato dai vari governi, perché non è un problema che è solo di oggi, deriva da tantissimo tempo, e quindi la via da intraprendere per trovare una soluzione, quella possibile, è la via diciamo politica, quindi assicurare la immissione in ruolo sui posti in organico di diritto esistenti. Faccio un esempio: uno di queste persone di Genova che ha fatto il ricorso diciamo lavora nella scuola da 10 anni consecutivamente su posti di organico di diritto. Il totale sul piano nazionale che si trova in questa situazione è di circa 50.000 della personale ATA e 20.000 insegnanti, cioè sono insegnanti che insegnano su posti sempre esistenti, quindi all'insegnante di matematica che i ragazzi si trovano e anno per anno deve cambiare sede, deve essere rinominato. Su questo numero di posti la spesa è ugualmente sostenuta dallo Stato, quindi con la emissione in ruolo non c'è una grande differenza. Addirittura c'era stata una proposta, tra l'altro del centrodestra, di alcuni anni fa, che andava a trovare una soluzione che individuava la copertura della spesa nelle modalità contrattuali di retribuzione di questo personale. Poi c'è il problema più numeroso dei circa 120.000 persone che lavorano con questi contratti a termine, e anche qui c'è una soluzione di buonsenso: anziché anno per anno assumerli e licenziarli, fare come avveniva una volta, cioè dei contratti pluriennali fino a che i posti ci sono e la diciamo copertura della spesa per via contrattuale sulla base dello stipendio che si definisce. E poi c'è l'ultima soluzione definitiva che bisogna ricordare, e bandire i concorsi, perché lei ha perfettamente ragione: per poter insegnare, per poter accedere, occorre un concorso che sia possibilmente anche rigoroso e selettivo, ma se i concorsi non vengono banditi, non vengono fatti, le persone che aspirano a insegnare hanno solo questa possibilità, e non è giusto che queste persone vengano trattate in questo modo. Quindi la denuncia che noi facciamo è che questo problema è trattato con una questione burocratica dal Ministero. Occorre aprire un confronto sereno ma serio per dare una soluzione alla questione. Dopodiché noi non abbiamo alimentato, come gli altri sindacati, i ricorsi. I ricorsi sono stati la necessità dovuta ad una negazione di un diritto, quando la soluzione per via negoziale e politica non viene individuata. Allora, Prea, lei che dice? Che cosa si può immaginare come risposta che non porti a chissà quali sborsi aggiuntivi certo, a titolo risarcitorio, e dall'altra questa prospettiva che da anni è aperta e che finisce per concentrare così tanta attenzione, invece che sui problemi della riforma e dell'offerta formativa, dei percorsi della riforma, finisce per diventare sempre la questione dirimente. Dice tanto innanzitutto non ce n'è per i lavoratori. Come si potrebbe immaginare di metterla un pochino con ordine, ma con la prospettiva di dare risposta a chi la chiede dopo anni e anni di impegno? Certo, io vorrei però per un attimo ritornare sulla sentenza di Genova e ricordare che riguarda il personale ATA, che complessivamente può arrivare ad un'azione risarcitoria per 40.000 persone, tantissimo ovviamente, però in questo caso la giurisprudenza è stata netta, in ottemperanza alla direttiva europea per la stabilizzazione dei precari che impegna gli stati nazionali europei a stabilizzare nell'impiego pubblico e privato lavoratori che abbiano lavorato per più di 3 anni, sul personale ATA non ci sono stati dubbi, perché i posti sono effettivamente vacanti, disponibili. Abbiamo sentito Di Menna parlare di un collaboratore che ha lavorato per 10 anni continuativi in una scuola, quindi effettivamente è una situazione molto più chiara. Mentre con riferimento al grande numero del precariato docente, la giurisprudenza è molto più oscillante tra dar ragione al Ministero e dar ragione ai ricorrenti, proprio perché non c'è la stessa chiarezza rispetto alla disponibilità dei posti. Questo è fin qui la questione delle sentenze. Naturalmente resta il grande problema del reclutamento dei docenti, della qualità della docenza, della necessità di considerare ormai la docenza italiana come una questione strategica per il successo formativo. Però è difficile, è un po' come quando, dottor Giannino, parliamo dei problemi economici del paese e dobbiamo fare i conti col debito pubblico. Quando parliamo di reclutamento dei docenti non possiamo ignorare che abbiamo graduatori permanenti che ad una stima al ribasso ci parlano di aspiranti pari a 208.447, questa è l'ultima stima che ha fatto il MIUR, che ha consegnato appunto alla Camera, alla Commissione Cultura, quando abbiamo dovuto approvare le varie leggi che riguardavano la scuola o i ridimensionamenti degli organici. Quindi è una questione di soluzione, che richiede una soluzione certamente legislativa, che deve tener conto dei diritti acquisiti, non c'è dubbio, di questi docenti, che sono tanti, ma io mi auguro che voglia guardare anche al futuro e quindi ritagliare degli spazi per docenti diversamente qualificati e ancor più diversamente reclutati. Quindi è una decisione che dobbiamo prendere subito, come al solito facendo riferimento al famoso 50-50, cioè il doppio canale, un 50% secondo i vecchi criteri, quindi con facendo riferimento alle graduatorie, attingendo dalle graduatorie per il reclutamento, ma io mi auguro che il Ministro voglia per l'altro 50% prevedere delle leggi che non diano più la possibilità di creare precariato, ormai l'Europa ce lo impone, e nello stesso tempo invece di alzare l'asticella sulla qualità della docenza. Io però di fronte ai numeri, perché noi avevamo accorpato più o meno i numeri e ne era venuto fuori una specie di esercito, quindi il problema è che se uno somma, più o meno ci sono 230.000 insegnanti abilitati, poi ce ne sono circa 300.000 non abilitati, quindi siamo più o meno intorno, spannometricamente e con rispetto per chi sa che con precisione i numeri non sono proprio riducibili a spanne così, però siamo a 500.000 supplenti, chiamiamole così, cioè siamo a 500.000 persone che ruotano intorno al meccanismo temporaneo degli incarichi, ai quali poi si assommano in realtà un altro paio di centinaia di migliaia almeno di supplenze brevi. La questione è Di fronte al fatto che questa è la stima numerica, a cui poi vanno naturalmente, ovviamente si aggiungono coloro che si abiliteranno negli anni prossimi grazie al nuovo regolamento sulla formazione iniziale, è pensabile con i sistemi attualmente previsti di portare storicamente in qualche maniera a esaurimento queste categorie? In che misura, tenuto conto del fatto che in realtà c'è tanta altra gente che, malgrado i numeri, secondo me, della squadra avrebbero dovuto sconsigliare negli ultimi anni di credere davvero di scommettere la propria vita professionale su questo, però c'è chi lo ha fatto e io le chiedo, questi numeri sono compatibili con meccanismi che consentano metà e metà, 50 e 50 per l'immissione poi in ruolo del futuro tra Pescare, tra questo esercito che preme da anni e coloro che si avvicinano, oppure bisognerebbe rinunciare per un po' alla seconda categoria e concentrarsi solo sulla soluzione storica del problema, con tutti i limiti che questo può rappresentare? In realtà i numeri che cosa ci dicono? Certo, io intanto mi rifiuto di pensare che per un certo numero di anni, ma qui potremmo anche parlare di un decennio, noi rinunciamo a selezionare docenti giovani preparati. E quindi assolutamente mi auguro che il ministro Gelmini voglia seguire la strada del 50-50. Per rispetto ai numeri, però, mi lasci dire anche che fortunatamente la stima è su 208-210 mila, poi Di Menna potrà anche magari confermare o dirci qualcosa, perché ciascun aspirante in realtà può chiedere, in relazione alla laurea posseduta, l'iscrizione in più graduatorie di istituto. Quindi quando noi diciamo 208.447, che ripeto è il dato ufficiale che il Ministero ha fornito alla Camera dei Deputati, alla mia commissione, il calcolo è stato effettuato considerando gli aspiranti una sola volta e prendendo a riferimento la graduatoria in cui risultano inclusi col punteggio più alto, e quindi ipotizzando che questo sia prevalentemente riferito al servizio di insegnamento, ma comunque sono tanti. C'è da dire anche che molte graduatorie sono esaurite, e questo ancora di più impone una decisione politica e una selezione, un reclutamento, perché nel frattempo stiamo creando altro precariato, in quanto in alcune regioni, soprattutto al nord, si chiamano docenti laureati inseriti nelle graduatorie di istituto, ma addirittura privi di abilitazione. Quindi si è creata un'altra categoria di docenti, se possibile ancora più povera di titoli e di qualificazione, ma assolutamente necessaria alla scuola italiana, e che per questo deve avere una anche risposta legislativa, cioè noi dobbiamo aprire una fase concorsuale o una fase di selezione anche per questi docenti che in alcune regioni del nord stanno lavorando da anni senza abilitazione, ma in realtà insegnano. Certo. E quindi, come vede, la situazione è complessa. Però è anche vero che pur se non sono mezzo milione, ma fossero anche 200 e qualcosa mila, siccome il ritmo annuale più o meno di assunzione è di 10.000, non è che possiamo per 20 anni concentrarci solo a esaurimento in questa fascia, quindi il problema resta. Io ricordo a tutti poi che sono anni e anni che non viene bandito un concorso a cattedra, e malgrado tutto questo è che le regioni in cui le liste più pesanti più sono quelle che riguardano regioni come Sicilia, Campania, Lombardia, Lazio e Puglia, sono le regioni con il più alto numero di iscritti nelle graduatorie. Ora abbiamo la pubblicità e poi ricominciamo con Di Menna le vostre telefonate. Eccoci tornati in studio, cominciamo con qualche telefonata. Vladimiro che ci chiama da Bergamo, prego Vladimiro. Pronto, buongiorno. Volevo dire che la mia impressione che ho avuto qua adesso all'inizio della trasmissione è che gli insegnanti precari non siano preparati al loro compito che hanno. Invece le devo dire che quelli precari di adesso, si sono i più preparati, in quanto hanno fatto oltre 5 anni universitari, 2 anni di specializzazione con tirocinio. Una preparazione così specifica non si è mai avuto nelle scuole italiane, anche perché ci sono molti abilitati che sono abilitati soltanto con 150 ore di studio, diciamo. E in secondo luogo devo dire che questi precari sissini sono stati illusi dai bandi delle scuole SIS di specializzazione, in quanto queste prevedevano numero chiuso e programmato. Numero chiuso e programmato che è stato un falso, in poche parole, in quanto si trovano tutti a spasso. E questa, mi scusi se sono un po' preso da questa cosa, dall'emozione, però diciamo dire che chi ha studiato, chi ha fatto, ha dato tanto e che sta dando nella scuola viene messo così da parte. Mi sembra una grossa ingiustizia. La ringrazio, buongiorno. Bene, grazie Vladimiro. Naturalmente io ricordo tutti che la sentenza in questo caso è personale atta, diceva l'onorevole Aprea, cioè significa ausiliario amministrativo e tecnico. Giorgio che ci chiama da Firenze, ricordo tutti che il numero è 800240024. Prego Giorgio. Buongiorno, mi riferisco alla sentenza della magistratura, in particolare quella di Siena. Ecco, io la ritengo una cosa inaccettabile perché l'articolo 97 della nostra Costituzione afferma che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Vorrei sottolineare che la sinistra e i sindacati molto pronti a denunciare le presunte violazioni della Costituzione da parte del centrodestra stanno appoggiando questa posizione della magistratura e che io ritengo sia una violazione della nostra Costituzione. Vorrei sapere cosa ne pensa. Grazie e buongiorno. Ma guardi, io la sentenza di Siena l'ho proprio vista e io dal punto di vista del diritto penso anche io, sono curioso di vedere le motivazioni così come sono state scritte per vedere se si proveranno in grado di superare l'esame della Corte d'Appello di Firenze, perché anche secondo me l'automatica traduzione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo determinato per pronunzia del giudice nella pubblica amministrazione, la mia opinione, la mia personalissima opinione, leggi e principi del nostro ordinamento alla mano, io non considero che sia attuabile sic et simpliciter per decisione del giudice. Però io devo essere onesto, non la pensano così tutti i giudici della Repubblica Italiana, quindi poiché io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che più di 10 punti di debito pubblico nel nostro PIL, per esempio, si devono alle sentenze della Corte di Costituzionale in materia previdenziale, io non è che posso dimenticarmi che in passato noi abbiamo costruito una via giudiziaria al debito pubblico, detta così naturalmente gli ex componenti della Corte Costituzionale mi metterebbero al rogo, ma perché abbiamo proceduto, perché nella nostra giurisprudenza è passato il principio dell'estensione analogica, infatti quelle si chiamano sentenze analogiche, sentenze estensive analogiche, e che cosa abbiamo esteso per analogia? La titolarità di un diritto ad avere trattamenti previdenziali. Nell'ordinamento c'era? Non c'era, però la giurisprudenza si è formata perché i giudici della Corte hanno pensato che così di interpretare meglio, al meglio, in maniera evolutiva, ciò che sta scritto all'articolo 2 e 3 della nostra Costituzione. Anche in materia di lavoro esistono le giurisprudenze evolutive. Naturalmente la mia opinione è che è molto discutibile pensare sia a maxi risarcimenti che scassano la finanza pubblica, sia tantomeno a diritti automatici all'emissione in ruolo. Però questa è la mia personalissima opinione. Mario da Sondrio, come la pensa? Mario, prego. Dunque, innanzitutto è il governo che pone al centro la questione degli organici nel momento in cui attua circa 130.000 tagli del personale in 3 anni e non intervenendo in altro modo sulla organizzazione scolastica. Lei dice che non è intervenuto in altro modo se non coi tagli. Tutte le trasmissioni su cosa le abbiamo fatte, Mario? Abbia pazienza. Ma perché bisogna cominciare con propaganda? Io sono un insegnante delle medie. Sì. E la scuola media in questi anni ha la stessa organizzazione, la stessa identica organizzazione di 50 anni fa. La scuola media, sì, certo. Aggravata da tagli al personale. E la logica che presiede anche alla scuola elementare, non ne parliamo, perché la scuola elementare aveva un'organizzazione che la poneva ai vertici delle classifiche internazionali, si è passati al maestro unico dequalificando la questione. La scuola media è un'organizzazione vecchia di 50 anni, non ci si pone assolutamente il problema di quali interventi occorrono per migliorare le biblioteche scolastiche. Ai ragazzini basta far vedere qualche libro nuovo e la voglia di leggere a molti viene e quindi migliorano anche la scrittura. Che interventi occorrono per migliorare i laboratori linguistici, i laboratori scientifici, che cosa occorre per migliorare la conoscenza del patrimonio artistico, tutte questioni che hanno delle conseguenze economiche nel medio periodo, tra l'altro. Punto secondo, è da anni che c'è questo, il giudice ha agito su un provvedimento che c'è da anni, preso dall'Unione Europea da alcuni anni. Certo. Allora siamo europeisti a targhe alterne, quando si tratta di introdurre qualche diritto dei lavoratori, che cos'è, non siamo più europeisti, è comoda così la faccenda, perché non siamo europeisti invece per quanto riguarda l'evasione fiscale, queste cose qui. Scusi Mario, ma cosa c'entra l'evasione fiscale? Qui stiamo, io la domanda i concreta è, dobbiamo coprire tutti di denaro e assumere tutti in ruolo, i 300.000 o 500.000, è ipotizzabile questa come soluzione concreta? Lei mi dice ci sono i barbari. Guardi, io sui barbari al potere, lei è libero di pensarla così, io mi sto ponendo un altro problema. Lei mi dice, come al solito, classica via italiana, ben altri sono i problemi. Ma la risposta alla domanda è: li copriamo tutti di denaro con miliardi di euro o li assumiamo tutti automaticamente per via giudiziaria? Di questo ci occupiamo. Poi di tutto il resto, che ci siano i barbari distruttori che vogliono consegnare all'ignoranza e allo sfruttamento del più bieco capitalismo i ragazzini a cui vogliamo levare i libri, gli vogliamo levare le scuole, perché questa è la sua descrizione, io rispetto il suo punto di vista, ma non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando della rimozione dei barbari distruttori della conoscenza dei nostri figli, stiamo parlando di un'altra cosa, ecco, dei precari e se esiste la via giudiziaria. Roberto, che ci chiama dalla provincia di Salerno, come la pensa? Buongiorno dottor Iannino. Dica. Mi sente? La sento, dica. Senta, io volevo dire, io sono ex insegnante e sento spesso quando si parla di scuola di immissione in ruolo e concorsi a cattedra. Allora io volevo raccontare questa cosa, che io sono un ex insegnante di conservatorio, sono entrato in ruolo nel 1974 e sono diventato titolare di cattedra. Sì. Un giorno, nel mese di settembre, all'inizio degli anni 90, ho chiesto un certificato di servizio e su questo certificato di servizio ho trovato un professore incaricato a tempo indeterminato. Allora sono andato in segreteria e ho domandato, scusate, ma io sono insegnante di ruolo da 20 anni, e dice, professore, ma lei non lo sa che è stato abolito il ruolo il mese scorso? All'inizio, e così ho avuto questa notizia, che agli inizi del mese di agosto dello stesso anno, mi pare che fosse il 92, mi pare il 6 di agosto, c'è stata una tavola rotonda fra governo, sindacati, eccetera, ed è stato abolito il ruolo. 2 milioni di insegnanti in un giorno hanno perso il ruolo. Di questa cosa non è uscita una parola in nessun giornale italiano. E da allora il ruolo non c'è più, siamo stati retrocessi a incaricati a tempo indeterminato. Io sento che a distanza di 20 anni si parla ancora di immissione in ruolo e di concorsi a cattedra, quando in Italia, per quello che io so, a meno che quelle cose non sono cambiate ancora, il ruolo non esiste più. Volevo dare questa informazione. Va bene, adesso poi torneremo con i nostri esperti. Sopra questo c'è ancora una telefonata, ci chiama Libero, dalla provincia di Latina. Prego, Libero. Sì, buongiorno. Giannino. Dunque, il problema di queste missioni in ruolo molto probabilmente dimostra ancora una volta che il governo sembra che abbia poca sensibilità nel vedere certe situazioni già consolidate, no? Cioè gente che magari, pur essendo precaria, lavora già nella scuola da diversi anni. Io volevo sottolineare tra l'altro il fatto che in questa riforma si mette ancora una volta in discussione l'aspetto tecnico della scuola italiana. Io sono un insegnante tecnico pratico, noi siamo una categoria di insegnanti che rende effettivamente pratico il discorso teorico attraverso i laboratori di elettronica, meccanica, biologia, microbiologia o chimica, e sono tutte specializzazioni a un certo livello che secondo la riforma dovranno essere accorpate in un'unica classe di concorso, il che significa che andando avanti con l'anzianità ci potremmo trovare un elettronico come me con esperienza di 30 anni che invece va a fare meccanico o microbiologia senza sapere nulla. Quindi se continua così, probabilmente per riparare un televisore o per fare un'analisi dovremmo chiedere aiuto in altri paesi come la Germania o la Francia, dove invece l'istruzione tecnica viene considerata in un modo molto molto diverso. L'ultima ciliegina sulla torta è il fatto che prima, negli anni 90, prendevamo 1600 lire al giorno, quei 3-4 giorni che si andava in gita, adesso sono stati aboliti anche quelli e si tratta di lavorare quando si va in gita con i ragazzi dalle 7 del mattino fino alle 4 di notte che vanno a dormire. È libero, però anche in questo caso l'importanza dell'istruzione tecnica alla tedesca, che è quella che forma meglio le professionalità di cui in Italia invece, pur in presenza di una forte, ohimè, impennata della disoccupazione, non abbiamo poi la possibilità concretamente di dare risposta, e rimangono ci sono circa 180.000 certificati, lavori che non si trovano, di cui non si trova la copertura, di cui c'è domanda nel nostro mercato del lavoro, esattamente per questo. Però il problema dell'istruzione tecnica alla tedesca, ne abbiamo parlato molte volte, dipende da questa grande sbornia ideologica che abbiamo preso per l'indirizzo dei pedagogisti, che dagli anni 70 in poi hanno fatto il più di ciò che è avvenuto nel sistema formativo italiano con la licealizzazione di massa. E quindi quello è un modello di fondo che con la questione dei precari non c'entra, è una pecca, a mio giudizio, sono d'accordo con lei, dei percorsi formativi che si sta tentando in questi ultimi anni, questa è la mia impressione, di recuperare. Però è stata una colossale sbornia ideologica quella di pensare che la licealizzazione per tutti e poi l'accesso di massa all'università, il valore legale del titolo di studio fosse uguale, più anni di formazione del capitale umano con il sapere manuale. Mio Dio, ma quello è sfruttamento. Ecco, io penso che siano errori gravi, però non c'entrano con la questione di oggi, che ripeto, ripongo anche al nostro ospite che si è aggiunto adesso, il professor Martone, che insegna diritto del lavoro alla LUIS. Questa sentenza, professor Martone, ci pongono questa questione di fondo: per centinaia di migliaia di precari della scuola, la risposta può essere, secondo lei, giudiziaria? Come si può pensare a un'attuazione ordinata nel tempo delle direttive comunitarie che sono per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, quando in realtà i numeri di coloro che ogni anno possono entrare nel futuro nel sistema della formazione pubblica sono di 10.000 unità, non superiori, e a premere invece da anni e anni sono centinaia di migliaia? Qual è la risposta che può venire dal diritto del lavoro, secondo lei? Ma intanto la risposta che deve venire dal diritto del lavoro non può essere quella che stanno cominciando a seguire i giudici, non tanto con la sentenza di Genova, e poi ne parleremo, ma soprattutto con quella precedente di Siena. Nel senso che noi il dramma che sta accadendo è che stiamo sostituendo il vecchio principio del concorso, in base al quale appunto gli insegnanti andavano scelti in base alla competenza e al merito, abbiamo sostituito, a causa anche di una politica che si è rifiutata, centrodestra e centrosinistra, di affrontare il problema seriamente, il principio del numeretto della fila, nel senso che qui piano piano si sono messi in fila 500.000 persone con contratti di lavoro a termine che molto spesso potevano essere illegittimi, ma adesso la giurisprudenza con queste sentenze rischia di creare un danno peggiore del male. Se noi pensiamo a tutte le telefonate adesso, ci si è lamentati della mancanza di fondi alla scuola. Beh, se passerà l'orientamento giurisprudenziale di cui stiamo parlando, beh, tutte le poche risorse che noi dovremmo destinare per avere laboratori migliori dovranno andare a questo. Pronto? Dico, dovranno andare a questo tutte le persone. Andranno tutte a questo, inevitabilmente. Nella stessa condizione di questi 15 precari di cui stiamo parlando questa mattina si trovano 500.000 persone, come dicevate. E il problema è proprio quello della giurisprudenza, cioè di una giurisprudenza che anche negli anni 90, prima da fine giurista, Giannino, lei stava parlando giustamente delle sentenze degli anni 90, per esempio quelle sulla clausola oro. Beh, quelle hanno concorso al debito pubblico senza tenere in alcun conto il quarto comma dell'articolo 81, quello che dice che ogni nuova spesa deve avere una copertura. Ecco, se passeranno queste sentenze, noi avremo che le poche risorse che abbiamo da destinare alla scuola verranno tutte succhiate per assumere questi precari che, si badi bene, non entreranno così mediante concorso, no, entreranno semplicemente perché hanno fatto causa e perché qualcuno a un certo punto gli ha dato un contratto a termine che era illegittimo. Le responsabilità, lo ripeto, sono anche della politica che non ha avuto una programmazione, però certo questo rischia di segnare veramente il vero fallimento della scuola italiana, al di là delle dispute ideologiche, perché la cosa che fa ridere nel nostro paese, prima sentivo parlare della Germania, della Francia, è che noi continuiamo ad utilizzare, a pensare di poter discutere di ideologie oppure di fare sentenze solamente in base ai valori, quando abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, che è quello che realmente sta compromettendo il futuro delle nuove generazioni. E qui mi sembra un apprezzabile richiamo alla concretezza dei nostri problemi, però lo dico dal mio punto di vista. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi ricominciamo da Di Menna, segretario della UIL Scuola. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della trasmissione di oggi. Siamo partiti dalla sentenza del giudice del lavoro di Genova su 15 precari, ATA della scuola, 500.000 euro il risarcimento per loro. Abbiamo proiettato questa somma applicata alle stime delle centinaia di migliaia di precari della scuola, voragine per la finanza pubblica. Abbiamo parlato delle altre sentenze, come quella di Siena, che dicono non risarcimento, immediata traduzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo tentato di focalizzare cosa vuol dire un tentativo di tradurre il rapporto a tempo determinato, quando poi in realtà gli ingressi nel sistema annuali saranno a regime intorno alle 10.000 unità, ci sono centinaia di migliaia di persone che premono dietro. Ovviamente, aperti i microfoni, la maggior parte di coloro che sono nella scuola dicono: no, voi volete ridurre la questione ai numeri, siete degli spietati, aridi, disprezzatori della realtà. La realtà è che è frutto del disinteresse di ciò che davvero è in questione nella scuola. Io invece torno a porre la domanda a Di Men, al segretario della UIL Scuola, pensando a come si fa a smaltire l'arretrato di fronte a così poche immissioni, migliaia, ma poche rispetto all'arretrato, e a contemperare insieme il diritto di chi ha accumulato esperienze in questi anni, anche dure, e a chi invece nella lotteria del giudice rischia di vedersi assicurato un posto automatico, magari senza esserci passato, visto che oltretutto molti sostengono che il meccanismo delle graduatorie, così come oggi, è un meccanismo molto discutibile, che non consente più dall'esterno di graduare davvero la credibilità dei titoli accumulati. Di Menna che ci dice? Ma innanzitutto non si tratta solo di personale ATA, in questi 15 ci sono anche gli insegnanti e ci sono molte altre sentenze che riguardano gli insegnanti stessi. Convengo che la grande parte delle sentenze ha fatto riferimento appunto al risarcimento, solo questa di Siena sulla trasformazione del rapporto di lavoro, problema giuridico, anche a me pare un po' complicato pensare ad una estensione. La sostanza è questa: ci sono circa, ripeto, 50.000 posti di insegnamento e un po' di più per quanto riguarda il personale non docente, che sono posti esistenti che servono al momento per far funzionare la scuola e servono da molti anni, cioè sono lavori, attività che vengono svolte in via continuativa. Su questi posti è opportuno prevedere il contratto a tempo indeterminato, perché è un organico che è stato già ipotizzato previsionalmente che andrà avanti negli anni, e quindi reiterare ogni anno contratto annuale crea questo problema di negazione di un diritto del lavoratore, di disfunzione del servizio in termini di discontinuità di attività e di possibilità poi che in termini di ricorso ci sia anche questo risarcimento del danno. Quindi lei dice qui bisogna assumere in pianta stabile almeno 50.000 posti. Quelli dove sono i posti, dove sono i posti? Cioè si fa un organico, si stabilisce che per i prossimi 10 anni quei posti di organico saranno comunque coperti, necessari, perché fare tanti incarichi? E si risolve un problema. Però posso, ma si risolve un problema, perdoni, ma è possibile mai che l'unica soluzione del problema in Italia sia estendere i costi e assumere più gente? No, è come la risposta al problema del fondo al FUS. Dice: no, certo, alla fine mi hanno alzato la benzina. Non è un'estensione di assunzione, questi sono già assunti. Cioè ci sono già lavoro, solamente che anziché lavorare perennemente addirittura da 10 anni. Poi se questi no, posti... perdoni, ma Di Menna, perdoni, scusi. Non è che si tratta di cambiare nome, perché i costi sono diversi, come lei sa. I costi sono diversi tra un lavoratore a tempo indeterminato, quando si cambia la pianta organica, e la copertura tramite ricorso invece a lavoratori a tempo determinato. I costi sono diversi, perché ovvio, sono diversi i diritti e sono diverse le basi e computo retributivo. Quindi non è che si tratta semplicemente di cambiare nome a 50.000 posti, o no? La questione della retribuzione dell'aumento si può risolvere per via contrattuale. Ripeto, c'era stata una proposta del responsabile scuola dell'allora Alleanza Nazionale che aveva proprio ipotizzato questo percorso, che trovava anche una possibilità di soluzione. Va fatta un'analisi di costi, però il principio che quei posti non sono posti aggiuntivi, ma che esistono e che si coprono con contratti a tempo determinato che sono, diciamo, contestabili, esiste. Poi c'è la seconda cosa da far subito, lo ricordava anche l'onorevole Aprea. I numeri sono esattamente quello che diceva lei, dottor Giannino, cioè sono quelle dimensioni così alta, preoccupanti e di difficile soluzione, di chi ha delle aspettative. Però sono diversificati per materia di insegnamento e per territorio. Nel liceo scientifico di Treviso ci sono insegnanti di matematica che sono addirittura privi di abilitazione perché non ci sono persone che fanno la richiesta nelle graduatorie. Se non viene fatto il bando di concorso per coprire quei posti dove le graduatorie non ci sono e si scoprono quindi insegnanti di matematica del liceo scientifico di Milano, di Treviso, di Torino, con posti insegnanti che abbiano la continuità, non si risolve il problema del precariato, ma addirittura se ne sta creando un altro. Con titoli anche, mi pare di capire, a questa parte. Poco verificabili. E poi si tratta di definire una modalità un po' più moderna. Convengo che questo sistema è un sistema ormai ampiamente superato, che tra l'altro costa ai precari ogni anno un sacco di soldi per i punteggi e tutti questi meccanismi che non servono. Però sono persone che hanno fatto delle esperienze, hanno superato dei concorsi che sono nelle graduatorie, e un meccanismo che eviti le supplenze continue e dia un organico funzionale più stabile alle singole scuole o alle reti di scuole per evitare il formarsi di precariato può essere la strada per ridurre la riproduzione continua di questo problema. D'accordo, però insomma Di Menna ci ha detto cui bisogna assumere. Aprea, che dice? Volevo ricordare naturalmente che in mora in questo caso, con riferimento alle sentenze, il Ministero dell'Economia evidentemente non dell'Istruzione, ma non v'è dubbio che se l'economia paga delle multe per l'istruzione poi darà meno finanziamenti alla stessa istruzione, quindi è un problema che ci riguarda ancorché veniamo direttamente penalizzati. Non può essere la soluzione la via giudiziaria, tra l'altro noi Di Menna lo sa, perché in questo devo dire è uno dei pochi sindacati che si è alleato con noi, con il governo, per una sburocratizzazione della docenza e il superamento definitivo dell'impiegatizzazione della funzione docente. Cioè noi siamo di fronte all'assenza di professionalizzazione, di valutazione, di meritocrazia, di carriere, di sviluppo professionale, e quindi è la burocrazia che sta mangiando, divorando la stessa figura della docenza. Siamo appunto finiti nelle mani dei giudici, siamo di fronte a graduatorie permanenti bloccate, ma per modo di dire, perché appunto ci hanno già compromesso il futuro. Allora la soluzione è proprio quella di immaginare sicuramente un reclutamento immediato, perché quindi con selezioni, insomma prove concorsuali, credo che il ministro Gelmini ci stia pensando, ma soprattutto preparare il nuovo reclutamento dei docenti che si iscrivono alla formazione universitaria prevista dal regolamento Gelmini, quindi alle scuole per l'abilitazione all'insegnamento prima universitario, quindi per percorsi prima universitari e poi tirocini nelle scuole, preparare per questi docenti di domani, ma un domani prossimo, stiamo parlando di docenti che fra 3-4 anni potrebbero essere assunti dalle nostre scuole, e che preveda sì la formazione universitaria, ma poi albi regionali, cioè qualcosa di molto più legato al territorio, alle esigenze dei territori. Va bene, io ho il tempo è scaduto, quindi io devo ringraziare l'onorevole Aprea, Massimo Di Menna, il professor Martone. Temo che questo riguardi la formazione dei nuovi ingressi nella scuola, ma qui il problema del 500.000 così non si risolve. Io continuo a dire, a nome del contribuente italiano, io non credo che la risposta possa essere 50.000 assunti, e quindi questo problema rimarrà. Faccio appello ai giudici, il vostro buon senso, di pensare agli effetti delle sentenze, non solo ai principi da squadernare generali, è ciò che può fare la differenza. Pensiamo a quanto avete esteso in questo paese l'estensione di diritti fuori dalle prescrizioni del legislatore. Tutto questo viene in tasca a noi contribuenti. Cari giudici, mettete una mano sulla coscienza. Grazie a tutti, appuntamento a domani di Nagione Radio.